tranquillo, sicché mi decisi a richiamare. Che cos'è accaduto? Sii sincero, dillo. Che cos'è accaduto in mezzo al mare? Oh capitan, oh capitan, hello, hello, sì, sì, vi spiegherò, datemi ascolto.